pomeriggio Camilla Lattanzi da Firenze. Buon pomeriggio. Benvenuta a Caccia al Libro. Grazie. Che cosa cerchiamo per lei? Cerchiamo un libro che si intitola Dalla Russia, scritti sulla campagna di Russia e sull'Unione Sovietica di Emilio Faccioli, edizioni Arcari del 1995. Allora, noi lo rilanciamo subito, Dalla Russia, scritti sulla campagna di Russia e sull'Unione Sovietica, Emilio Faccioli l'autore, Arcari la casa editrice, il curatore Maurizio Berulletti, 1995 appunto, l'anno di edizione. Cosa c'è in questo libro, Camilla? Perché lo cerca? Allora, lo cerco perché ho avuto una nonna che non ha mai sorriso. Ah. E perché suo marito è morto, cioè è disperso in realtà, è stato dichiarato disperso nella ritirata di Russia, e questo libro parla proprio della ritirata di una particolare colonna, quella del 35esimo corpo di armata, divisione Pasubio, e la 298esima divisione di fanteria tedesca. Dico questo perché la fuga, diciamo, perché questo fu di fatto il ripiegamento, disperse un po' le compagnie, i gruppi, e ogni, diciamo, gruppo ha fatto un percorso un po' diverso. Quindi chi come me sta cercando indizi, sta cercando aiuto per ritrovare questo nonno, l'esito, la fine della vita, o comunque insomma l'esperienza che ha vissuto il nonno, che sto cercando, ricordando anche mia nonna, che ormai ovviamente non c'è più neanche lei, l'unico aiuto può venire dai libri e dalle testimonianze, perché nella confusione estrema di quella ritirata le unità si sbandarono, i gruppi si sciolsero, quindi i diari militari tenuti dagli ufficiali, i ruolini dove c'erano scritti nomi e cognomi andarono tutti perduti o furono distrutti perché non venissero presi dal nemico. Quindi le fonti storiche sono complicatissime, e qui ci si aggrappa un po' a delle schegge di memorie che possono essere i diari di qualche ufficiale, gli appunti di qualche soldato, qualche famiglia può avere delle storie orali, ma a causa poi della storia anche politica del paese è intuibile come mai questa la storia di questa ritirata disastrosa è stata un po' accantonata. Senta, lei, Camilla, è ovviamente un bellissimo impegno, è un bellissimo progetto quello a cui si sta dedicando. Che altre strade ha tentato? Lei dice ci sono solo i libri, c'è solo allora, questa. I libri intanto sono stati la prima ispirazione. Vorrei fare una piccola parentesi e ringraziarvi per il tempismo, perché il ripiegamento è stato dichiarato il 19 dicembre 1942 alle ore 15, e quindi è pazzesco che io sia adesso a chiedervi. Alla stessa ora, esatto. Alla stessa ora, sì, 76 anni fa, e quindi grazie, anche un po' un'emozione per me. I libri sono stati la prima ispirazione, un enorme aiuto per inquadrare la faccenda. Ce ne sono tantissimi, ricordo in particolare il libro di Riccardo Bulgarelli che si intitola Fronte del Don, dicembre 1942, sì, che è interessante perché lui stesso racconta in questo libro la storia della sua ricerca. Anche lui cercava lo zio e ha fatto una ricerca enorme, gigantesca, cita tantissime fonti che sono utilissime per chi come me sta vivendo, sta muovendo i primi passi nello stesso tipo di ricerca. Ma ci sono altri contenitori interessanti, per esempio farei anche un appello a tutte le famiglie che hanno in casa qualcosa, un taccuino, degli appunti, ma anche una storia orale, di mettersi in contatto con l'UNIR, che è l'associazione dei reduci caduti dispersi sul fronte russo, che ha anche una mail e un sito internet, info@unir.it, e che è un enorme contenitore dentro il quale c'è tantissimo. Io mi sono rivolta subito a loro per cominciare a muovere i primi passi. E poi ci sono dei gruppi Facebook, come per esempio un gruppo che si chiama Armir, sulle tracce di un esercito perduto, gestito da Renza Martini, una persona incredibile, appassionata, infaticabile, che sa tutto e che aiuta tantissimo le persone come me. Immagino che ci siano centinaia e centinaia di persone che in questo momento stanno facendo lo stesso tipo di ricerca, perché furono 75.000 le persone che mancarono, diciamo, all'appello, 15.000 in battaglia e 60.000 finirono nelle prigioni, nei campi di lavoro in Russia. Tra l'altro mi sono rivolta anche a un ufficio a Mosca dove ci sono due persone che stanno ricercando negli elenchi dei prigionieri transitati nei campi di lavoro in Siberia, perché c'è un lavoro complicatissimo dal momento che quando loro dichiaravano il loro nome e cognome, lo dichiaravano in italiano e tutto veniva trascritto in cirillico. Certo. E quindi adesso da questi, diciamo, enormi manuali, enormi registri dove ci sono dei nomi, dei nomi in cirillico, bisogna capire se nella fonetica si risale a un nome e cognome italiano, un lavoro pazzesco. Beh, anche lei ha fatto un lavoro pazzesco e lo ha fatto anche ora di sintesi nel raccontarci qual è la situazione, nel dare anche molti suggerimenti e molti consigli per chi sta facendo la sua stessa ricerca. Quindi, Camilla Lattanzi, noi speriamo che davvero qualcuno fra coloro che ci ascolta possieda una copia di Dalla Russia, scritti sulla campagna di Russia e sull'Unione Sovietica di Emilio Faccioli, pubblicato da Arcari. E Posso lei? aggiungere un'ultimissima Certo. cosa? Mio nonno, ne approfitto perché non si sa mai, Radio 3 è ascoltata da molte persone, diciamo che hanno un interesse culturale e credo anche storico. Mio nonno si chiamava Deruvo Del Bianco, era di Carrara, è partito da Acqui Terme con il 50° gruppo artiglieria. E quindi Deruvo chissà, Del e Bianco, quindi chissà, chissà. chissà, appena avremo notizie e sono certa che le avremo rapidamente, Camilla, glielo faremo sapere. Grazie intanto, grazie Ringrazio davvero per voi. questo racconto. Grazie, grazie. 06 3686 5666, ovviamente per chi possiede una copia di Dalla Russia, scritti sulla campagna di Russia e sull'Unione Sovietica, di Emilio Faccioli. Stesso numero per quello che sta cercando e che ora ci racconterà Maurizio Fagioli da Ferrara. Buon pomeriggio. Grazie.